Radio Città Fujiko, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Oui, je t'aime. Sta per cominciare la forma dell'acqua. Gli ascoltatori sono pregati di prendere posto. La forma dell'acqua, musica e intrattenimento su Radio Città Fujiko. E buongiorno e ben ritrovati a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori sulle frequenze di Radio Città Fujiko, i 103.1, per questo terzo appuntamento della forma dell'acqua special summer, per un'estate fra suoni, stili, visioni e anche label a questo punto, insieme a William Piana e Elisa Iacobucci, che vi dà il benvenuto in questa puntatona speciale. Devo dire, allacciate le cinture perché stiamo per lasciare di nuovo Bologna, questa volta in una meta un po' meno solare, però sicuramente speciale per la musica, perché stiamo andando proprio a Detroit. Eh sì, questa volta non ci vediamo sulle spiagge assolate del Brasile, però sarà importante, anzi fondamentale, non solo per le sonorità bellissime afroamericane, ma per tutta la musica, questo viaggio che ci farà conoscere una label che negli anni 60 e 70 farà la parte del leone e sdoganerà la black music con eleganza, stile in tutto il mondo. Il soul cambierà nome addirittura. Vedo già le luci della pista, anzi stiamo sorvolando il Michigan e un cartello in lontananza ci dice: benvenuti a Hitsville. Questo rientro in diretta, Baby a Go Go di Barbara McNair. Elisa, stiamo facendo un bel salto indietro nel tempo, non solo l'aereo ma anche la macchina del tempo. Eh sì, perché era il 1959 quando il trentenne Berry Gordy fondò a Detroit la sua casa discografica e si affrettò subito a porre sulla porta d'ingresso di Grand Boulevard il gigantesco cartello che recitava Hitsville USA, la città dei successi. E la storia gli ha dato proprio ragione, perché la Motown è l'etichetta indipendente più famosa della storia della musica. Eh sì, in questa questa prima parte facciamo una bella rassegna di 45 giri di rare groove, per così dire, sconosciuti, perché all'inizio tanti artisti come questa Barbara McNair ne fecero parte, delle specie di meteore che però lasciarono una luce splendida per un susseguirsi di successi, come ha detto giustamente Elisa, un cartello grandissimo sui primi studi di recitazione, di registrazione, recitavano la scritta "Benvenuti a Hitsville", come diceva anche 1959, e l'inizio di una splendida storia che inizia in maniera però commerciale. Beh, diciamo che il colore fondamentale non era il nero, forse era il verde, quello del dollaro, esatto, probabilmente. E Barry Gordy faceva parte di una famiglia di imprenditori, aveva il sangue intriso di affari, aveva il sangue dentro i dollaroni, e quindi ha visto bene di fondare questa etichetta discografica. Involontariamente però farà delle grandissime cose anche dal punto di vista dell'aggregazione. Sdoganerà la black music in tutto il mondo, la saprà unire ai suoni easy listening, al pop, e inventò la famosa linea di basso Motown. Non si parlerà più di soul, ma di Motown sound. Tanto vale ascoltare di Elgin's "Heaven Must Sent of You", il paradiso deve averti portato, eh sì, il paradiso deve aver portato la Motown. Sì, questo suono viene dal paradiso, questo suono è quello della Motown. Siamo nel 1959, in grande imprenditore Barry Gordy, che però inizia la carriera discografica con un nome alternativo, Tamla, di cui l'origine è quanto mai sconosciuta, ma grazie alle ricerche di Elisa scopriremo anche questo. Eh sì, infatti il nome iniziale non era neanche Tamla, era Tammy, perché era rimasto affascinato da un film di Debbie Reynolds, Tammy and the Bachelor, ma era stato già utilizzato il nome Tammy, quindi ripiegò su un Tamla. E infatti la canzone principale, Tammy, di Debbie Reynolds, vinse anche il disco d'oro. Addirittura, già buon segno, quindi, esatto. Di grandi successi già dalla scelta del nome. E quindi dopo ci sarà lo slogan, ovviamente, sarà il suono che farà girare il mondo con la Tamla. Rimarrà il nome Tamla per quanto riguarda l'esportazione all'estero di questi dischi, che però ovviamente sarà nella seconda e terza parte del nostro appuntamento. E se volete ballare e cantare assieme noi a questa forma dell'acqua speciale, 333-180-9494. Sarete compagni di viaggio verso Detroit, una passeggiata su questa città originariamente industriale, il boom economico, ci sarà ricchezza anche per le operaie e gli operai, ricchezza, vabbè, per modo di dire, diciamo che si potranno permettere qualcosina in più. La grande furbizia di Barry Gordy? Beh, c'è chi si occupa del lavoro? È la Ford, è la General Motors, che faranno grandi affari con le automobili e le officine. Bene, io farò grandi affari regalando grandi note durante il tempo libero, e così sarà. lungimirante e furbo, si abbina anche a un'orchestra per accompagnare gli artisti durante le loro rassegne e i loro concerti. Le orchestre erano così un inizio, un'orchestra che era abbinata al nome dell'etichetta discografica, la Soul Orchestra, vedremo più avanti i Mother, Father, Sister and Brother per la Philadelphia Sound, ma tutto comincia con i Funk Brother per la Motown Records. I Funk Brother, la band di musicisti proprio residenti, uno straordinario lavoro fatto da Earl Van Dyke al pianoforte, James Jamerson al basso, Benny Benjamin alla batteria, insomma è entrato nella storia della musica e si potrebbe davvero scrivere un libro sulla loro vita e sulla loro musica, cosa che in realtà è stata fatta perché hanno scritto appunto un documentario, Standing the Shadow of Motown, dove Benjamin racconta come è nato il nome proprio Funk Brothers, e cioè dopo una sessione si gira verso i suoi fratelli e dice: siete voi i fratelli del funk. I can't help myself, Sugar Pie Honey Bunch, the Funk Brothers. E rientriamo in diretta e arrivano i primi messaggi. Che bello questo viaggio, grazie per la musica e per le preziose informazioni di bordo. Complimenti Laura. Grazie Laura, grazie, gentilissima. Laura. Sì, sempre presente all'ascolto dei 103.1 di Radio Città Fujiko alle 10:49 minuti. Abbiamo ascoltato questo brano che verrà poi riportato al successo dai grandissimi Four Tops, di cui parleremo più avanti nella nostra trasmissione, ma questo brano ha delle caratteristiche molto particolari. Molto particolari, infatti a livello proprio di percussione alla base era quasi un po' strumentale, ma un po' anche psichedelico, nel senso che in realtà a livello proprio di percussioni venivano fatti degli esperimenti anche con le catene da neve, proprio come creazione di effetti speciali. Già. Beh, siamo nella città delle officine. Esatto, quindi. Infatti, solamente che la Motown aveva più una visione rigida, non lasciava tanto spazio agli artisti di improvvisare, infatti poi vennero successivamente tolti questi effetti, anche se in realtà, secondo me, erano già molto molto avanti, quindi era anche difficile star dietro a questi grandi artisti che se ne inventavano ogni volta di nuove. Sì, è la critica principale che viene rivolta alla Motown, che non lasciava molto spazio agli artisti se non dai produttori, che davano ordini per come scrivere canzoni e per che prodotto confezionare. Vedremo più avanti che è un falso, non è esattamente così. La Motown, seppur molto legata al denaro, involontariamente sdoganerà un principio fondamentale, che non è musica ai bianchi, ma è musica per parlare con tutto il mondo. La black music non sarà più quella del sud, quello della persona di colore che è sofferente, della persona di colore della capanna dello zio Tom, della persona di colore vista come una persona che aveva solo dei guai, ma sarà anche qualcuno che vuole dialogare con altri, che seguirà il principio di Sam Cooke, cioè io sono contento se ai miei concerti vengano tanti bianchi, così vedono quello che noi fratelli neri sappiamo fare. La Motown involontariamente porterà questo principio in tutto il mondo e quello che sanno fare lo fanno vedere veramente bene. Ovviamente, come ho detto, è una musica per dialogare. La persona di colore non sarà più vista con la sofferenza, ma sarà vista inserita con due termini così vicini tra loro anche come pronuncia: integrazione e interazione, soprattutto, cioè comunicazione. E infatti così sarà. Persone di colore insieme ai loro amici bianchi festeggeranno tutti assieme, passeranno ore di tempo libero assieme con la colonna sonora splendida della Motown. Non sarà più chiamato soul, pensa un po', sarà chiamato The Motown Sound, perché proprio ci sarà uno sconvolgimento generale. Beh, del resto siamo a Hitsville, la città magica, può capitare di tutto. Può capitare anche che arrivi una ragazza poco più che bambina e ci farà sognare tutti quanti, seppur per poco. Stiamo parlando di? Di Tammy Terrell. All I do is think about you. You're getting to be all that matters to me. Questa era Tammy Terrell, una grandiosa cantante statunitense che fu nominata addirittura al Grammy Awards. Peccato per la sua vita breve ma veramente intensa, e principalmente celebre per la sua appartenenza all'etichetta Motown, ma soprattutto per i suoi duetti con il grande Marvin Gaye. Sì, era una ragazza davvero con un gran carattere, una peperina. In realtà poi Tammy, il suo vero nome era legato a Tommasina, e anche lei si dice che sia stata coinvolta da questo film che dicevo prima, Tammy and the Bachelor, e a 12 anni, scioccata e sconvolta dalla bellezza di questa canzone, disse: no, io voglio farmi chiamare Tammy. E quindi è un film che ritorna. È un film che ritorna, esatto. Nella storia della Motown. Alle 10:56 minuti, la prima parte sta quasi per concludersi, e un ottimo collegamento con la seconda sono queste meravigliose Marvelettes. Perché? Perché tu hai citato un personaggio che sarà chiave, di cui parleremo in una mini monografia nella seconda parte dopo la pubblicità. The Marvelette, pensate un po', le facevano da coristi e lui in cambio scriveva le parti delle percussioni. Sto parlando delle Marvelette in questo caso. Il ragazzo che presenteremo più tardi aveva come soprannome incredibilmente testardo. Beh, ormai non è una sorpresa, ma lo presenteremo più avanti. In questo caso vi ascoltate Please Mr. Postman delle Marvelette e ritorniamo in diretta dopo la pubblicità. Buon ascolto e a fra poco. Se cerchi un'enoteca... Ooh. Siete sintonizzati su Radio Città Fujiko, i vostri 103.1, per una forma dell'acqua molto speciale, speciale come lo Special Summer con William ed Elisa. Vi abbiamo lasciato presentando un ragazzo particolarmente testardo, beh, the stubborn kind of fellow è il grandissimo Marvin Pence Gay Jr., nato a Washington il 2 aprile del 1939. Una storia pienissima, densa di sorprese, una storia a volte tragica, una storia a volte densa di grandissimi successi. Cambierà la storia della musica, metterà elementi nuovi all'interno della black music, cambierà anche la Motown stessa. Curiosità: cambia il suo cognome, che è Gay senza la E, aggiungerà la E sia per stroncare le prese in giro e, perché no, per apparire più professionale. Molto criticabile questa scelta, ma ricordiamo che erano altri anni, erano altri tempi, e soprattutto lui aveva il colore della pelle sbagliato, oltretutto, quindi non so per il mondo conservatore se questo ancora sia... L'America si batteva per i diritti civili e quindi il modo anche di sfruttare la musica per avvicinare i bianchi e i neri era molto utile in quegli anni. E stessa cosa capitò al suo padre spirituale Sam Cooke, esatto, che aggiunse lei, che in quel caso insomma a livello di cucina io me lo sarei anche tenuto. Poteva tenerlo, però sai, evitare le prese in giro. Suo padre Marvin Gaye Senior, catechista di una chiesa molto integralista, lo costringe ad andare sempre a dottrina, ad annoiarsi, a stare sempre in chiesa, e lui cosa fa? Lui inizia a cantare nel coro, però in segreto prende anche lezioni di piano e si sente, e soprattutto di percussione. Sì, ricordiamo che le suonava per tutti gli altri gruppi della Motown, ovviamente per stare poco in casa, per stare poco in chiesa e per sfuggire agli abusi psicologici messi in atto, da un padre padrone, si può dire. E per sfuggire ancora meglio, ovviamente si arruola. L'unico modo per sfuggire a queste persecuzioni, chiamiamole così, era far parte dell'esercito. Va all'esercito, rientra e, convinto di essere testardo, convinto di essere un grandissimo talento, il quale è peraltro, si presenta alla Motown dicendo: io sono un fenomeno, sono qui per cantare, so suonare il pianoforte, ho un grande carisma, e inizia a incidere i primi 45 giri. The Stubborn Kind of Fellow è quello che abbiamo ascoltato adesso. Ricordo che però furono un po' un flop, vero Elisa, i primi dischi? Sì, diciamo che inizialmente forse era partito un po' con la cresta un po' troppo alta, esatto. Poi magari non si sa, all'interno Barry Gordy teneva con le briglie i propri artisti, quindi poi vedremo invece, quando allenterà la presa, cosa creerà il nostro grande Marvin Gaye. Per adesso ci ascoltiamo un altro suo grande primo non successo, ma per me meraviglioso, che è You Are My Pride and Joy. questo caso sono le Marvelet a fargli il corretto dietro alla sua voce molto carismatica. Saranno dei flop, non proprio dei flop, diciamo che non avranno il successo sperato. Riletti ai giorni nostri, sono delle hit meravigliose. Pride and Joy, che ricorda un inizio di vita sentimentale di Marvin Gaye quanto mai travagliata. È molto travagliata, perché in realtà si dice che questo era un omaggio alla fidanzata di allora, che era nonché la figlia del principale della Motown. Ha scelto alto anche lì. Esatto, esatto. E infatti diciamo che Anna Gordy era 17 anni più anziana, più vecchia, più matura, insomma. Come so, siamo diplomatici. Siamo diplomatici. Tra l'altro, una cosa che non mi appartiene per niente. Beh, vedi, la radio fa questo ed altro. Esatto. Riesce a tirare fuori caratteristiche insperate. Gli fa una corte spietata. Una corte spietata. Adottarono anche un figlio, che lo chiamarono poi Marvin Pence Gaye III. Terzo. Esatto. In realtà ci furono problematiche fin dall'inizio, perché questa unione in realtà era legata molto al proprietario della Motown. E in più iniziò anche a corteggiare Janice Hunter, che invece di 17 anni più giovane e figlia nonché dell'icona jazz di Slim Gaillard nel 73. Insomma, però, si dava da fare. La cresta era ancora bella alta. Beh, diciamo che è un bell'uomo, una star di successo, quindi voglio dire, forse ne aveva anche la possibilità, sicuramente, ma quello che più è importante è il grandissimo talento che si esprimerà più avanti nel pieno delle sue possibilità, perché alla Motown scoprono che lui ha una caratteristica molto particolare, che con le donne non solo ci sapeva fare, ma ci sapeva anche cantare. Ah, molto bene. E chi meglio di Tammy Terrell al centro proprio di questo duetto? E si vedeva proprio negli sguardi questo amore, questa complicità che era sottile, non si capiva quanto era all'interno della musica e quanto invece andava oltre. Diciamo che riesce a fargli abbassare la cresta per un attimo. Parecchio, parecchio. Galeotte saranno tante canzoni, i titoli Your Precious Love, un'altra dichiarazione d'amore meravigliosa, It Takes Two, e ce ne saranno tantissime. Una in particolare che ha un testo meraviglioso: non ci sarà una montagna tanto alta da poterti non raggiungere, non ci sarà un fiume così impetuoso da potermi tenere lontano da te, non ci sarà una valle così profonda da non poter esprimere il nostro amore. Sarà un grande successo ed è It No Mountain High Enough, il grande Marvin Gaye and Tammy Terrell. You don't have to worry. Sarà una storia d'amore bellissima in quanto mai espressa. Lui è l'astro confermato ormai nel soul mondiale, lei sta emergendo e quindi l'empatia è al massimo. I testi di canzoni d'amore vengono interpretati da questo duo in una maniera estremamente esplicita dal punto di vista di un amore vero. Marvin Gaye forse, ma io penso di sì, se ne innamora. Si vede anche nei video postati su YouTube che gli sguardi sono assolutamente molto intensi. La sorella di Barry Gordy non la prende benissimo. Beh, diciamo proprio di no. Non è anche felicissima perché... di questa cosa. Anzi, invece, proprio quando la nostra Tammy si inizia un po' ad ammalare, è lì che si vede proprio quanto Marvin in realtà ci tenesse a lei. Sì, purtroppo durante un concerto Tammy Terrell sviene tra le braccia di Marvin Gaye. Lui, preoccupato, la farà ovviamente ricoverare immediatamente in un ospedale più vicino. La diagnosi sarà spietata. Purtroppo Tammy Terrell, così giovane e così talentuosa, è destinata a scomparire a solo 25 anni in quanto una bruttissima malattia, un tumore al cervello, la colpirà così presto. Marvin scioccato, ma soprattutto scioccati anche noi, mi permetto di dire. Beh, perché sicuramente sarebbe stata secondo me una nuova Diana Ross. Io ho le sue compilation, ho i dischi, sono solo 45 giri, di grande valore fra l'altro, me ne pregio e mi stimo di tutto ciò, perché è stata importante, perché aveva una grande energia, un grande carattere, una grande forza nonostante la giovane età. La voce, pur non essendo quella di Aretha Franklin, aveva una capacità comunicativa infinita. Mi viene da paragonarla a una Diana Ross giovane, e anche sì, come tono di voce si sente che è molto simile alla grande regina di cui parleremo più tardi. Tornando alla biografia di questi due grandissimi artisti, una storia estremamente romantica e struggente. Lei non riuscirà a vincere la tremenda malattia e scomparirà giovane. Marvin Gaye rimane scioccato, cadre in una crisi incredibile, andrà in depressione, una depressione che lo porterà anche all'abuso di psicofarmaci. Al funerale si ricorda l'aneddoto che lui proverà a duettare col suo corpo deposto nella bara, sperando che la sua voce magica faccia risorgere questo angelo. Ma purtroppo Tammy Terrell è già angelo e non può che aspettarlo nel paradiso dei grandissimi artisti della black music e della musica in generale. Ciò non toglie che Marvin Gaye si riprenderà, continuerà a fare musica, ovviamente, e per fortuna per noi, vero? Esatto, anzi segna proprio un distacco dalla sua vecchia carriera, un po' più giovane, un po' più inesperta, fa lo scatto della maturazione, diciamo, sì, artistica, sì, andando proprio contro il boss del... che già non lo vedeva benissimo. Esatto, per già queste... non c'era proprio una pacifica convivenza. E Barry Gordy era molto preciso, molto fiscale, perché all'interno della propria casa discografica non si poteva poi andare fuori dalle righe, perché lui, appunto, da bravo imprenditore, aveva le sue linee guida che bisognava seguire. Ma Marvin, dopo questa grande delusione, questa grande depressione, riesce in tutta questa tristezza a comporre invece dei successi che saranno ricordati fino ai giorni nostri. Risorgerà più forte di prima. C'è però un periodo intermedio dove lui si dedicherà anche alla blaxploitation, che è quella forma musicale di colonne sonore legate alla vita afroamericana, di cui magari faremo uno speciale più avanti. Ma oltre alla blaxploitation, lui farà un 45 giri strepitoso che sarà una hit bellissima. In effetti, secondo me, a livello di radiofonicità e fruibilità, è una delle canzoni più belle di tutti i tempi. E pensate, siamo nel 1971 e lui non si riuscirà nemmeno a godere il successo di questo brano, perché ovviamente è molto molto ferito per la scomparsa di Tammy. Il brano è I Heard It to the Grapevine. Beh, non ci resta che farvelo ascoltare. Chosen hands to make me blue with some other guy. e si sente dire in giro che tu non sarai più mia. Chissà che non sia un rimando anche al formidabile duo che componevano Marvin Gaye e Tammy Terrell. Un brano in cui dalla scrittura si denota che la musica black, il soul, sta cambiando. Un pochino più introspettivo questo brano, più lento, suonato bene con l'orchestra. Marvin Gaye stava già meditando qualcosa, nonostante non si sia riuscito a godere il successo di questo grandissimo brano. Cara Elisa, ho scoperto che abbiamo delle storie personali legate a Marvin Gaye. Beh, diciamo che è stata una delle prime canzoni, una di Marvin Gaye, che dopo ascolteremo, non vi do l'anticipo, che mi è stata dedicata. Ma e che quindi bello. Sono molto contenta di questa cosa. Almeno una delle prime, cioè belle una, canzoni. Cioè, volevi dire una delle prime della lunga serie che poi mi saranno dedicate. Questo vedo, no, che diciamo la radio che insegna anche la modestia. No, dicevo che a livello anche di classe, nel senso, certo, magari mi avevano dedicato altre canzoni che essendo il ballo del qua qua non ti è piaciuto, esatto, tanto. Se avete canzoni da dedicarci, esatto, noi le aspettiamo però. Sì, sì, mandateci un messaggio così ve lo leggeremo in diretta. 333-1809-494. Ricomponiamoci, torniamo seri. La mia storia invece è legata a questo brano. Non so se i più anziani si ricordano che questa musica era legata a uno spot pubblicitario di una nota marca di jeans. Bene, cosa succedeva? In questo spot un ragazzo bellissimo si svestiva davanti a delle casalinghe disperate e metteva a lavare i jeans come unico capo di abbigliamento che aveva. Ha avuto un grandissimo successo, soprattutto fra le ragazzine. Io avevo solo fra i 13 e i 14 anni, ovviamente nessuna ragazzina mi guardava e faceva anche bene, visto la mia mostruosità, però quando conobbero che io sapevo benissimo che questo brano era di Marvin Gaye e si chiamava I Heard It to the Grapevine e avevo il disco, sapete quante cassette ho fatto e quanto ho avuto modo di conoscere. Bravo Willy, con la scuola della musica, con la bravo, scuola della bravo. Musica di Marvin Gaye, guarda un po'. Eh sì, è stata vabbè, la prima. Modo anche quello per fare conoscenze, diciamo. Quando non ci si arriva con altre doti, ci si arriva con la musica, insomma. Eh sì, è un modo strategico. Marvin Gaye insegna. Beh, siamo arrivati a un passaggio fondamentale però nella carriera del grande Marvin. Abbiamo detto un momento più introspettivo, abbiamo detto un momento di cambiamento, una piccola pausa, e lui continua a scrivere. Si accorge che il mondo sta cambiando, ci sono i primi movimenti, la guerra del Vietnam, il mondo sta andando male anche dal punto di vista dell'ecologia. Marvin Gaye si presenta da Barry Gordy e gli dice: ma tu non stai guardando quello che succede all'interno, stai guardando quello che succede solo all'interno o dai un'occhiata anche al mondo fuori? Ovviamente la risposta è no, perché Barry Gordy gli interessa solo quello che succede all'interno del suo portafogli. Esatto. E quindi chi se ne frega, basta fare dei bei dischi e tutto va avanti. E no, Marvin Gaye dice: sì, facciamo dei bei dischi, ma facciamoli anche impegnati. Ti presento questo, se lo vuoi ascoltare. Barry Gordy dice: ma chi ascolta sto disco qua? Ma questo è un disco bruttissimo, non lo venderai mai. Marvin Gaye, stizzito, non ne vuole sapere. Esce dallo studio sbattendo la porta dicendo: se non me lo farai pubblicare lo porterò ai tuoi concorrenti. Vabbè, giusto perché sei te, gli dirà Barry Gordy, potrai pubblicare. E invece con questo disco, What's Going On, probabilmente il più bel disco di tutti i tempi, il primo concept album, riunisce musica orchestrale, rock e soprattutto la composizione black e soul messa insieme in maniera concettuale, come se fosse un'unica orchestra che si snoda tra lato A e lato B. I temi, come ho detto, il pacifismo, i diritti civili, la sessualità, la guerra nel Vietnam. What's going on? Andiamo a cominciare? Oppure cosa succede, più precisamente detto? Non c'è né punto interrogativo né punto esclamativo, sono semplicemente affermazioni. Non ci resta che farvi ascoltare questa bellissima What's going on. Hey, what's happening? There's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love. And pick it sounds. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Che meraviglia, uno sguardo pieno d'amore gettato su una umanità in crisi, con le madri piene di dolore per i propri figli che muoiono in Vietnam e i padri che rispondevano con la violenza ad altra violenza. Infatti dice la canzone: non punirmi con la brutalità, ma parlami piuttosto e capirai che cosa sta succedendo. E questo forse ritornava un po' anche il carattere del padre, che era abbastanza rigido e violento con lui, e quindi ha rivisto magari dentro di sé questa visione paternale a livello sì, proprio di... assolutamente, più estetica. Più esteso, sì. Però devo dire è stato un successo che si è dovuto ricredere. Eh sì, diciamo che gli ha chiesto in ginocchio scusa, penso. Esatto. Sì, indubbiamente, addirittura gli chiederà: oh, che bello, visto che sei così bravo a fare questi dischi, fanne subito un altro. Sì, come se fosse, no, sfornami un altro bagnato di pane. No, non è proprio così. Beh, passerà un anno e mezzo circa e Marvin Gaye riuscirà nell'impresa. Riuscirà nell'impresa, farà un altro disco che non sarà ovviamente all'altezza di questo, ma ci andrà molto vicino. Il tema non è più sociale, ma è un po' più sensuale. Sì, è un po' più legato alla vita sessuale, però d'altronde erano anni dove anche quello era importantissimo per sdoganare la libertà di amare. Nonostante tutto, io preferirei chiuderla tra virgolette qui, la vita di Marvin Gaye, anche se quello che succede dopo non è bellissimo giusto per quello. Infatti si trasferirà, andrà all'estero, vivrà per un po' in Belgio, tornerà negli Stati Uniti, cadrà di nuovo in una bruttissima crisi depressiva. Ma pensate che forza, che grande talento. Si interrompono definitivamente i rapporti con la Motown. Lui si firmerà un contratto con la Columbia Records e la Columbia Records stessa gli dice: ti rimettiamo in pista. Ricordo che lui viveva in un furgone da fornaio sulla California, sulle coste californiane. Lo rimettono in pista e lui in solo 3 giorni riesce a scrivere un disco. Siamo nell'82, il disco si chiamerà Midnight Love. È bello, ci sono influenze elettroniche e lui felicissimo lo tornerà a casa per raccontarlo al padre. Esatto. Purtroppo però il padre reagì male, anzi sì. Andava in giro con la sua bella macchina regalata dal figlio e lui era in qualche modo geloso del successo del suo primogenito e quindi prese in mano una pistola e gli sparò contro diede così la fine ad un grandissimo artista. E noi preferiamo invece ricordarlo per quello che lui ha dato da iniziare, per cui let's get it on e dopo la pubblicità torneremo in diretta. E torniamo in diretta alle 11.39 minuti sui 103.1 di Radio Città Fujiko e siete all'ascolto di una speciale estate, lo Special Summer, e siamo in viaggio, anzi siamo già atterrati da tempo nella bellissima Hitsville, siamo a Detroit, che seppure con grande importanza non era solo Marvin Gaye, ma era anche il grandioso Stevie Wonder, un cantante, compositore, polistrumentista, uno degli artisti decisivi proprio della storia della black music e non solo, fondamentale anche all'interno della Motown. Talento precocissimo, una carriera fantastica, numerosi successi. Nasce il 13 maggio del 1950 nel Michigan. Purtroppo è divenuto già cieco nei primi giorni di vita a causa di un eccesso di ossigeno nell'incubatrice, ma si dimostra proprio con il suo grande talento musicale fin da piccolissimo, da ragazzino. Si trasferisce a Detroit con la famiglia nel 54, inizia a cantare nel coro della piccola chiesa e già a 9 anni inizia a suonare il piano, l'armonica, la batteria, insomma si fa vedere in tutte le sue doti. E non è un caso quindi se già dopo 2 anni fa il suo primo esordio nella sala di registrazione. Infatti nel 61 Ronnie White dei Miracle lo presenta proprio a Berry Gordy, e il numero uno appunto della Motown, e gli fa subito firmare un contratto appena lo vede. figurati un talento del genere. Però gli cambiò il nome, inizialmente lo fecero chiamare Little Stevie Wonder. Incide da piccolissimo. Esatto. Lui, infatti sì, un talento precoce, sfortunato quanto bravo, e per tenerlo diciamo così lontano dalle sue incredibili disgrazie e menomazioni, gli regalano un pianoforte. Pensa un po' quale regalo migliore azzeccato poteva essere per il grandissimo Stevie. Riuscirà a unire sonorità anche esotiche nella sua componente artistica? Beh, don't you worry about a thing, non preoccupiamoci. 333-180-9494, una speciale estate a tutti voi. Senti mamma, you understand that? No. Well, like, I don't understand how you can, cause like I've been to, you know, Paris, Peru, you know, I've been to Iraq, Iran, Eurasia, you know, I speak very, very, fluent Spanish. Todo está bien, chévere. You understand that? Bien chévere. Chévere. Bien chévere. Is that right, mama? Yeah, cause I got my shaking room with a little friend. Everybody's got a thing, but some don't know. Always reaching out in vain, just taking the things not worth having. But don't you worry about a thing, don't you worry about a thing, mama, cause I'll be standing on the side when you check it out. You say your style of life's a drag, and that you must go other places, but just don't you feel too bad when you get fooled by smiling faces. But don't you worry about a thing, don't you worry about a thing, mama, cause I'll be standing on the side when you check it. Siamo a Hitsville e Stevie Wonder non può mancare, perché è un successo dopo l'altro. Dal 69 al 74 inciderà tre dischi che saranno storie della musica, da Talking Book, deciso come disco più bello per il 1972, segue Inner Visions e ci sarà Music of My Mind, sarà il grande trittico di successi per Stevie Wonder. Stevie Wonder, ricordiamo, ancora in attività. Nonostante il sovrappeso, diciamo che riesce. Mamma ancora... mia, è veramente obeso. Si vede che riesce ancora a darci, insomma, dei pezzi, niente male. Anche negli anni '80 ha scritto qualcosa di interessante, seppur molto commerciale. Hotter Than July fu un disco bellissimo che metteva insieme anche sonorità reggae. Insomma, un grandissimo talento che non poteva mancare nella scuderia di Barry Gordy. Ma anche lui smentisce quella diceria, probabilmente vera, dei produttori che si imponevano, in quanto Stevie Wonder decide di prendere i suoi diritti, comprarseli, e fu una scelta molto lungimirante per le sue tasche. Direi di sì. Decisamente. Tra l'altro, nelle compilation Motown è difficile trovare un suo brano, a meno che non sia uno dei primi successi. Proprio per questo motivo lui sarà tra i primi artisti a essere padrone di se stesso. Onore al merito al grandissimo Stevie Wonder, uno dei re dei soul. Però noi andiamo avanti, perché, come ho detto, Marvin Gaye, Stevie Wonder, ma anche un altro grandissimo che addirittura scala la burocrazia del successo all'interno della Motown. Perché non fu secondo solamente a Barry Gordy, perché fu proprio il vicepresidente per tutta la durata della grande discografia della Motown, e sto parlando di Smokey Robinson. Un soprannome particolare. Lo zio, siccome era proprio appassionato di western, lo soprannominò proprio Smokey, per questo motivo qui. Smokey Joe, esatto. Poi rimase Smokey perché appunto legato appunto a questa filmografia, fece questo regalo al nipotino, che fece grandi successi più tardi, non solamente all'interno della burocrazia della Motown, ma più che altro in note. Venne abbinato ai Miracles, il gruppo che lo accompagnava in tournée, di grandissimo valore anche loro, e questo brano, 45 giri, The Track of My Tears, di Smokey Robinson and the Miracles. Yeah. nostra passeggiata nel Michigan, a Hitsville, più precisamente a Detroit. Non solamente città di bielle e pistoni, The Motor City si trasforma in bellissime note grazie alla Motown. La scrittura fondamentale ha linee di basso inconfondibili. La scrittura ha una particolarità: non saranno più ritmi che sono reiterati, ma un groove che sa ritornare. Tutto questo per il piacere dell'ascolto. Nascerà così una sorta di soul pop riconosciuto unicamente come Motown Sound in tutto il resto del mondo. Sono anni meravigliosi, sono anni splendidi, anni anche di boom economico. Barry Gordy ne farà anche qualche soldino. Purtroppo una decisione improvvisa, un trasferimento in California, sarà un po' un flop. Vedremo più tardi quale sarà la fine della Motown, dettata anche purtroppo dall'avidità. Eh già, però anche una cosa molto importante che purtroppo in via radio è difficile da trasmettere sono gli spettacoli, cioè la parte artistica che era parte fondamentale della Motown. Infatti nel frattempo si creò proprio una sezione artistica all'interno della Motown, l'Artist Development, che venne poi integrata dai vari coreografi come per esempio Colley Atkins e altri direttori musicali come Maurice King, e in realtà c'erano proprio degli aspetti della performance live un po' hollywoodiana, un po' studiata, perché ogni cosa non doveva essere lasciata alla casualità, e quindi questi balletti, questi cori, la parte dei fiati, doveva essere tutto perfetto, ed è risultato qualcosa appunto di unico, anche riconosciuto a livello internazionale. Eh sì, e non so se hai visto certi video dove le band si esibivano con delle divise ben chiare, specifiche e colorate che unificavano gli artisti fra di loro. Eh già. Si sfidavano a colpi di note, e fra i leader di queste sfide vi erano i grandissimi Temptation. Eh sì, Temptation, come è accaduto anche a livello di gruppi musicali, Temptation hanno avuto un po' di trambusti interni, perché comunque c'erano persone che entravano, persone che uscivano, si sono creati addirittura due gruppi con lo stesso nome. Brava. Esatto, però ovviamente quello importante è quello capitanato da Otis William, che viene proprio considerato come quello originale, la vera copia. La vera copia, la bella copia. La bella copia. Eh sì, e si sfideranno a suon di note sopra questi palcoscenici. A proposito di affari, incassavano tantissimo anche nei teatri con queste performance. L'eleganza la faceva da padrone, ovviamente. Se pensiamo all'eleganza di adesso, purtroppo, della black music, beh, avrebbero tanto tanto da imparare da questi artisti. A proposito di Temptation di Otis Williams, un successo del 65 degli Impressions, riportato alla ribalta da loro, da questi Temptation. Get Ready. Baby, dichiara Elisa che questo successo è stato portato alla ribalta anche dalla grandella Fitzgerald? Oh, che bella notizia. Beh, strano, comunque lei è una grande interprete, che quale successo non ha potuto reinterpretare? Assolutamente importante. Beh, saranno coverizzati da tantissimo, però ricordo che questo è un brano degli Impressions, il brano, il gruppo di Curtis Mayfield. Un'altra etichetta importante, la Carlton Classic Soul, che farà il paio con la Motown del grandissimo Curtis Mayfield, in questo caso l'etichetta di cui vi ho parlato. Noi rimaniamo a Detroit però, e poi chi lo sa, ci espanderemo, andremo in tante altre città, mi sa, città importanti per il sole e per la musica in generale. Avvisami in caso che mi porto la crema solare, così no, mi preparo. Rimaniamo sulla East Coast. Io preferisco il dato soul, dato che c'eravamo, visto che è estate, ancora non ho visto il mare, portavo il costume, ne approfittavo. Ti farò fare qualche scappatina in California. Grazie, con grazie. La Motown che si trasferisce, e si chiamerà Mo West. Ho una compilation fra l'altro della Mo West, bella dal punto di vista così ideale, dal punto di vista della passione completista, ma in effetti la Motown di Detroit è unica a tutti gli effetti. Dicevamo, tornando ai Temptation, di grandi scontri ovviamente amichevoli con un altro gruppo che era leader all'interno della Motown, e stiamo parlando dei Four Tops. Four Top, un quartetto statunitense di base un po' jazz, soul, R&B, con capitanato dal grande Levi Stubbs, il primo baritono all'interno di un gruppo quando in realtà erano quasi tutti tenori. Sì, tenori, assolutamente. Esatto, infatti c'era Levi Stubbs con Abdul Duke Fokin, Renaldo B. Benson, insomma sì. un grande quartetto. Grandissimo quartetto, salutiamo il leader che è scomparso poco fa fra l'altro. Esatto. Grandissimo attore, cantante, performer, voce baritonale bellissima, le hit che esibivano in pubblico erano assolutamente coinvolgenti, una storia fantastica all'interno della storia bellissima della Motown, un successo, forse il più grande, Reach Out, I'll Be There, i Four Top. E ci sentiamo per le band female dopo la pubblicità. Just Party Logore ti annoia? Vieni alla discoteca Acque Imola, dove la natura incontra il divertimento. Fuggi dallo stress e vieni a scatenarti con i migliori DJ nel verde del Parco delle Acque Minerali. Dal martedì alla domenica si balla dalle 21.30 alle 3. Il giovedì e il sabato presentati a nome Radio Città Fujiko e avrai un ingresso ridotto. Ci trovi a Imola in via Kennedy Curvatosa. Per info chiama il 335-465-721 o visita il sito acqueimola.it o seguici su Facebook. Al Bounty Risto Pub è festa tutti i giorni. In via delle Moline 6/A a Bologna trovi un locale accogliente con pranzo a buffet a 9,90€ tutto incluso, pizza cotta nel forno rigorosamente a legna, super aperitivo tutti i giorni e cucina aperta fino a tarda notte. Al Bounty Risto Pub puoi organizzare i tuoi party di laurea e di compleanno e seguire le partite Sky, Mediaset Premium e la Formula 1. Vieni a far festa al Bounty Risto Pub. Per info bountyristopub.com. Uscire a cena è uno stress. Tieni d'occhio i bambini, mangi in fretta in posti tutti uguali e mai un attimo per me. Allora è meglio andare al Circolo Mazzini, che è trattoria con prodotti tipici come le crescentine, a vini bio e birre artigianali. C'è uno spazio dedicato ai bambini ed è un posto decisamente diverso da altri. Che meraviglia! Così mangiamo tranquilli. Mangiamo e ci scateniamo con una delle tante iniziative del Circolo Mazzini. Wow! E dov'è? È in via Emilia Levante 6 a Bologna ed è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Chiamalo 051 30 93 26 o vai su circolomazzini.it per il programma completo delle iniziative. Per tutta l'estate dalle 19.30 area giochi con gonfiabili. Che nostalgia da bella cucina siciliana. Allora vieni ad Arancina Express, sempre aperto fino alle 2 di notte, venerdì e sabato fino alle 4. Troverai pane e panelle, arancine tradizionali, originali al cioccolato, sfincioni, cornetti e bomboloni. Arancina Express è in via Massarenti 75/C a Bologna. Per info 366 12 21 717. Arancina Express, la Sicilia sulla tua tavola. Dal 13 giugno al 27 luglio il rock respira col Botanic 4.0. Ritorna tutti i giorni l'estate in musica ai giardini di via Filippo Re con concerti, cinema, buon cibo e tanto bolleggio. E dopo i concerti si balla con i DJ dell'Estragon. Scopri il programma su www.botanic.it. Troppo caldo per mettersi ai fornelli e mangiare i soliti cibi surgelati mi mette tristezza. E allora sorridi, c'è Giallo Pasta, il laboratorio di pasta fresca Bologna in via Cartoleria 26/A. Giallo Pasta vende tagliatelle, tortellini, tortelloni, orecchiette, zuccherini, pasticcini e la migliore pasta fresca di Bologna. In più rifornisce catering e ristoranti. Ogni giovedì sera dalle 19 alle 22 c'è la degustazione. Un twist di pasta a soli 5 euro. Ho già trovato il numero 051 26 4777, via Cartoleria 26/A. Con Giallo Pasta ho già la collina in bocca. One Love Festival. Dal 25 al 28 luglio a Sottomarina Venezia, le migliori band reggae live. Steel Pulse, Kimani Marley, Gentleman, Ajwad, Africa Unite, Scardi and Fahrenheit 451, Quartiere Coffee, One Love High Power, Roots Family e molti altri. One Love Festival, musica reggae a 50 metri dal mare, 4 bar, ristorazione, mercatino, area giochi per bimbi, campeggio. Dal 25 al 28 luglio, area Duse di Sottomarina Lido, Venezia. Tutte le info su onelovefestival.it. Yeah. 103.1, torniamo in diretta. Siamo William e Elisa per lo Special Summer, la forma dell'acqua d'estate. 12.04 minuti. Il rientro è stato accompagnato dagli Hailey Brothers. This Old Heart of Mine is Wicked for You. Un grandissimo successo che non può che concludere positivamente questa rassegna di band prettamente maschili. Ma ora spazio alle donne. Grandissima importanza per le donne nella Motown. Beh, direi, anche perché in teoria dovrebbe essere prima le donne, però in questo caso, insomma, per purtroppo situazioni di regia, insomma, bisogna. No. No, beh, in realtà, cioè, possiamo partire già dalla prima parte con le Velvet e le Marvelette, che erano appunto delle grandiose soliste, e all'interno della musica della Motown hanno dato il loro, però solo perché le Supreme ancora non erano entrate all'interno del mondo discografico. Proprio così. Esatto, insieme anche alla grandissima Diana Ross, scritta ovviamente tutta in maiuscolo perché è stata tra le più grandi cantanti, ma ancora, diciamo, legata alle Supreme, hanno dato quel tocco in più all'interno della Motown a livello proprio di sonorità soul femminile. Diana Ross, assolutamente importante, non solamente per il talento personale, ma anche per il messaggio che ha lanciato. Io l'ho definita la Marvin Gaye in rosa, perché seppur più fortunata, tuttora esistente, Diana Ross, già questa la dice lunga, però anche per il suo impegno, perché pochi sanno che lei si è presentata davanti alla regina, facendo, la regina d'Inghilterra in questo caso, in un'occasione ben specifica, facendo un discorso sul razzismo molto molto toccante, tanto più che scatenò piano piano il coinvolgimento e l'applauso del pubblico in generale. La cantante disse: "Non ho molte occasioni di parlare a persone potenti come chi mi sta davanti oggi. Io, come vedete, sono nera, mentre voi siete bianchi. Io canto e voi mi ascoltate. Poi, quando tutto è finito, ce ne andiamo insieme dalla sala. Ci sono posti nel mondo, compreso alcuni stati del mio paese, gli Stati Uniti, dove neri e bianchi non hanno gli stessi diritti, non possono neanche uscire dalla stessa porta. Vorrei che ci pensate quando tornerete nelle vostre case." Fece un passo avanti, disse queste cose, distaccandosi dal resto del gruppo, le Supreme, in un'occasione molto particolare, fra l'altro. Beh, sì, era un invito, diciamo, londinese, c'erano un sacco di celebrità, c'erano tante persone, era il Royal Command Show, molto importante a livello britannico, infatti di solito venivano date per scontate band inglesi, infatti. Invece proprio perché ci fu questo grande successo di questo gruppo, vennero invitate davanti alla regina, anzi ci furono anche delle critiche, perché appunto la regina non poteva inserirsi a livello proprio politico, decisionale, e quindi a livello di stampa prese più importanza a questa cosa che il suo discorso, che era molto più importante, diciamo. Beh, se le ha chiamate la regina aveva buon gusto musicale, si può dire, quello è immancabile. L'occasione specifica artisticamente parlando, e mi riempie il cuore di gioia, con la canzone Baby Love, le Supreme in Inghilterra scalzarono i Beatles dal primo posto nelle UK charts, una delle poche band, e oltretutto ci fa ancora più onore perché questa band è tutta femminile. Esatto. Hai visto, nonostante la regia venga accusata di maschilismo, se la cava sempre bene. Beh, se la cava meglio sicuramente Diana Ross e le Supremes con un altro loro grande successo, You Can't Hurry Love. A fra pochissimo. la grandissima Diana Ross, tra l'altro presentata da Otis Williams all'interno della Motown, talmente all'interno dell'immaginario collettivo che addirittura comparì nelle banconote da un dollaro sui francobolli insieme alle Supremes. È vero. Che è impensabile, cioè per far capire quanto era amata e quanto era ben voluta da tutto il mondo. Sì, assolutamente, bellissima donna fra l'altro. Chiamata anche la signora del blues. Cederà alle tentazioni della disco music, tentazioni bellissime fra l'altro, scriverà Upside Down, che è un brano strepitoso, veramente molto bello, e farà ballare non solo me ma anche le generazioni a seguire. Diana Ross arriva alle Supremes un pochino dopo la loro formazione, loro già affermate. Mi meraviglio, chissà cosa avranno pensato quando l'hanno vista arrivare. Ma guarda questa che adesso deve scalzare, mannaggia lei, chissà come sarebbe, cosa sarebbe successo se non ci fosse stata lei. Beh, invece le Supremes saranno state brave perché sono riuscite a fargli anche posto, diciamo così. Non è successo nulla all'interno del gruppo, a quanto pare, almeno quello che è successo è stato raccontato in questo modo. In realtà la vera rivalità era tra Diana Ross e Barbara Streisand, in realtà lei proprio non si potevano vedere, in realtà era più Barbara Streisand che aveva un po' il dente avvelenato, perché si sentiva un po' all'interno delle classifiche più alte a livello di femminilità, e quando è arrivata Diana ha detto: la rivalità artistica qui bisogna farla valere, perché se no la differenza tra me e lei potrebbe in qualche modo reincalzarmi e soppiantarmi dalle classifiche, come poi sarà tra l'altro. Sì, assolutamente. Ricordiamo anche di una rivalità strana, che è quella con Marvin Gaye. Sì, perché in realtà lei era un periodo in cui era incinta e doveva appunto fare un duetto con Marvin, solo che Marvin gli sputava il fumo in faccia. Che signore. Era ancora, mi sa, il periodo post cresta alta, assolutamente. E infatti decisero di registrare in due sessioni separate e poi riregistrare la canzone in modo da inserire entrambe le voci, per evitare appunto queste situazioni di imbarazzo e litigio. Esatto. Paradosso, Diana Ross dopo la scomparsa di Marvin Gaye scriverà una canzone secondo me bellissima, che è stata sottovalutata, perché la black music purtroppo negli anni 80 era sottovalutata, ma il problema è degli anni 80. Si chiamerà I'm Missing You, è dedicata a Marvin Gaye, in traduzione mi manchi. Mi manca il tuo fumo nella faccia. Non lo so, non capisco, ma la canzone era veramente bella, un testo meraviglioso. Missing You, un brano dedicato a Marvin Gaye nonostante i loro litigi, chissà, questioni di amore e odio. Beh, Diana Ross è tuttora una produttrice musicale, Diana Ross bella e brava. Non ci resta che ascoltare quel brano che ha scalzato il Beatles dal primo posto, cioè Baby Love. Don't questa sarà la grande hit che scalzerà i Beatles dal primo posto nelle charts UK. Sarà un grande successo anche in tutto il resto del mondo. The Supremes saranno la band più riconosciuta nel mondo del soul. Questo fa onore perché è anche una band fatta di tutte ragazze molto belle e dotate di tantissimo talento, capitanate dalla meravigliosa Diana Ross. Abbiamo tenuto in fondo questa parte perché è la più importante. Hai capito? Ah, ecco. Hai capito come funziona? Beh, in compagnia di William Piane e di Elisa Iacobucci alle 12:16 minuti stiamo arrivando al termine di questa lunga passeggiata nel Michigan a Detroit. Detroit, che è questa città, diciamo, prevalentemente industriale, ma che ha saputo volgere un occhio anche al tempo libero involontariamente, per così dire, grazie al fiuto per gli affari di Berry Gordy, si trasformerà e diventerà Motown, più precisamente Hitsville. Beh, il resto è storia. Una storia che purtroppo finirà nel 1988, vero Elisa? Sì, finirà proprio in una sorta di pazzia quasi, perché dopo tante scelte ottime andò quasi a vendere la propria casa discografica e non si sa come, magari non l'abbiamo detto anche che inizialmente Gordy voleva fare il pugile. Sì, è vero. Quindi si vede che magari aveva pensato, magari mi ributto un po' come Rocky Balboa, gli è venuto lo spizzo a 60 anni di ributtarsi sul ring, magari ha cambiato idea, però comunque sì, ha segnato la maggior parte dei grandi successi della Motown. Quando si parla di soul si parla indiscutibilmente di Motown, senza nulla togliere alle altre sonorità, ovviamente. Viene definito anche urban soul, ma non mi piace tanto questo termine. La Motown proprio è indescrivibile se non con la parola stessa che la contraddistingueva. I colori nero e oro facevano la parte del leone nei loghi di Detroit, di questa etichetta bellissima. Abbiamo detto band femminili, adesso è il momento di Martha Reeves and the Vandellas, a cui facciamo i migliori auguri di buon compleanno. Eh sì, l'altro. Perché oggi è proprio il suo compleanno. Sì, sì, sì. Questo brano fantastico che si chiama The Heat Wave, l'onda caldissima. We'll be right back. The Heatwave, Marlies and the Vandellas, nomi particolari, poi le supreme, le piccole vandale. Sì, sì, vabbè, però giustamente in quegli anni ci anche stava. Le donne, non solo i neri. Che dovevano far comunque sentire la propria musicalità, i bianchi dovevano coinvolgere, insomma, certo, tante cose insieme all'interno di questa grande etichetta discografica. E fra l'altro le donne in questo caso hanno anche dei testi molto aggressivi, cercavano di sedurre, insomma, sicuramente in maniera molto romantica e delicata, però anche con una grande ondata di calore emotivo. Martha Reeves, oggi è il suo compleanno, gli facciamo gli auguri. Prosegue la nostra rassegna all'interno delle grandi band e non solo femminili, perché è il momento di un personaggio molto particolare che sarà riscoperto anche ai giorni nostri a proposito delle sonorità indipendenti. Stiamo parlando di Mary Wells, che anche lei da giovanissima, scoperta sempre da Berry Gordy all'età di 17 anni, iniziò a cantare con la sua fantastica voce. Il primo grande successo fu Bye Bye Baby, inciso proprio subito dopo aver firmato con la Motown, quindi proprio un primo grande successo, fino ad arrivare a My Guy, che ha veramente segnato la sua scalata verso il successo. Vennero rifatte tantissime cover, anche molto legata ai Beatles, che oltre a rifare le cover la chiamarono proprio in alcune tappe del loro tour che stavano appunto effettuando per cantare insieme. E probabilmente è per questo che piace molto anche ai bianchi che ascoltano musica pop rock indipendente, per questo legame con i Beatles. Infatti sono sonorità molto più soavi e cantautorali. Beh, non ci resta che ascoltare Mary Wells e la sua My Guy. Minuti alle 12:30 è il momento di rientrare, lasciare il Michigan e ringraziarlo per Detroit e per la Motown, e in compagnia di William Piana e Elisa Iacobucci riatterriamo in via Giambologna negli studi di Radio Città Fujiko. Felicissima Elisa di tutto ciò, che ricordo cura i loghi di ogni trasmissione dello Special Summer, quindi i colori della Motown non sono più nero e oro ma sono un arcobaleno. Esatto, bellissimi, complimenti, ti ringraziamo tutti per questo apporto supporto fondamentale, oltre che per le ricerche precisissime. Bene, noi vi diamo allora appuntamento a giovedì prossimo, sempre all'interno della forma dell'acqua, con un altro speciale suoni, stili, visioni, con Special Summer con William Piana ed Elisa Iacobucci. Tra poco ci sarà l'informazione, lasciamo spazio al GR. Elisa, non ci resta che lanciare i saluti. Sì, bisogna salutarci. Questa puntata è stata davvero speciale, soprattutto per te, perché so quanto sei legato alla Motown, ma anche per me, perché risulta sempre degli esordi, delle prime parti musicali a cui uno fa riferimento. Sei molto colta, infatti, sulla black music. Beh, insomma, dai, faccio il mio. Di fianco a te risulto più piccola sia di statura. Pensa un po'. Infatti, quando hanno visto la nostra foto hanno detto: ma com'è possibile? Sembrate passi vicini. Certo. E poi che io ero su uno sgabello. Sì, io ero sul gradino pure. Io chiuderei con un brano di What's Going On che ha una specifica particolarità, cioè si sente l'idea del concept album, e tra pochi secondi partirà questa sorta di mashup, di mixaggio con The Ecology, Mercy Mercy Me del grandissimo Marvin Gaye. Direi che sono note azzeccate come sigla di chiusura per il nostro Special Summer. Restate all'ascolto del palinsesto estivo di Radio Città Fujiko. William e Elisa vi danno appuntamento a giovedì prossimo. Non ci resta che mandarvi un abbraccio e un saluto, e buon ascolto da William Piana e Elisa Iacobucci. Ciao a tutti. On the oceans and upon high seas, fish full of mercury. Hey.